In quel tempo Gesù, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: Come mi conosci? Gli rispose Gesù: Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Gli replicò Natanaele: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù: Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. Poi gli disse: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Recentemente abbiamo già analizzato questo brano e abbiamo parlato di Natanaele. Natanaele è uno dei 12 apostoli ed è chiamato anche Bartolomeo. Ecco perché non ci risulta nell'elenco dei 12 il nome Natanaele, perché l'altro nome per Natanaele è appunto Bartolomeo. Ma non è di questo che oggi vi vorrei parlare, dal momento che appunto recentemente abbiamo parlato di lui, ma vi vorrei parlare di quello che dice Gesù qui. Poi disse Gesù a Natanaele: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Vi vorrei parlare oggi degli angeli, gli angeli di Dio. Perché? Perché oggi la liturgia celebra la festa degli arcangeli Michele, Raffaele e Gabriele. Chi sono gli angeli? Chi sono gli arcangeli? Gli angeli sono persone, sì, sono persone, non persone umane, non persone divine, ma appunto persone angeliche. Che cosa vuol dire essere persona? Essere persona vuol dire essere capace di conoscere e di amare, di volere. Gli angeli quindi sono persone, non persone umane, in quanto hanno la capacità di conoscere e di amare, ma non hanno il corpo. Le persone umane invece, oltre allo spirito, quindi oltre a questa facoltà di conoscenza e di amore, hanno anche un corpo e le persone divine sono solo spirito, ma spirito purissimo e altissimo. Le persone divine ovviamente sono le persone della Santissima Trinità. Ma oggi vorrei parlarvi degli arcangeli Michele, Raffaele e Gabriele. Che cosa sappiamo di loro? Innanzitutto sappiamo dell'esistenza degli angeli e degli arcangeli dalla Sacra Scrittura, ma diceva San Tommaso che anche qualora non ci fosse stata la rivelazione, tuttavia l'uomo avrebbe potuto immaginare la presenza di spiriti angelici, in quanto altrimenti mancherebbe un anello alla catena della creazione, perché nella creazione abbiamo gli esseri inanimati, gli animali, poi l'uomo, poi ci sarebbe Dio, e però tra Dio e l'uomo c'è un anello mancante, che è quello di un essere spirituale senza il corpo, che appunto è il concetto di angelo. Quindi gli angeli sono persone, quindi sono degli enti capaci di amare, capaci di conoscere, e sono degli enti, cioè delle persone che sono poste a servizio e ad aiuto dell'uomo e delle persone divine. E che cosa fanno gli angeli? Gli angeli sono sia buoni che cattivi, perché come le persone umane sono sia buone che cattive, anche gli angeli hanno la facoltà di conoscere e di volere e di amare, quindi possono rispondere sì e rispondere no. E oggi festeggiamo l'arcangelo Michele. Michele vuol dire chi è come Dio e vuol dire anche appunto questa potenza grande di Dio, Dio che interviene per difendere il popolo, e quindi l'angelo, l'arcangelo Michele è per antonomasia colui che ci difende dalle forze del male. Infatti, prima della riforma liturgica, ogni giorno alla fine della messa si recitava una preghiera a San Michele, arcangelo protettore contro soprattutto lo spirito del male. Poi Gabriele vuol dire fortezza di Dio. Ed è colui che annuncia i grandi messaggi, è colui che è mandato a Maria. E E quindi è il patrono anche di tutti coloro che si dedicano alla comunicazione. E poi abbiamo Raffaele, che è l'angelo mandato, sappiamo della sua esistenza nel libro di Tobia, ed è l'angelo della guarigione ed è anche l'angelo protettore dei viaggi. Quindi prima di mettervi in viaggio, cercate di rivolgervi a Raffaele e soprattutto pazienti e medici dovrebbero rivolgersi spesso a Raffaele perché Raffaele vuol dire appunto medicina di Dio ed è colui che viene incontro a malati e a coloro che si prendono cura dei malati, quindi sia i medici sia tutto il personale che si dedica a curare le persone ammalate. E quindi oggi pensiamo alla nostra devozione verso gli angeli e abbiamo questa devozione, ci crediamo veramente in queste presenze di conforto che il Signore ha voluto mettere al nostro fianco, oltre ovviamente ai nostri angeli custodi che magari potremmo, su cui potremmo riflettere un'altra volta. Quindi il proposito di oggi vuole essere quello di migliorare il nostro rapporto con questi tre angeli e di invocarli, soprattutto l'angelo Michele quando dobbiamo combattere contro i nostri difetti, contro il male che ci attanaglia, Gabriele quando dobbiamo comunicare e quindi nelle relazioni e Raffaele per i viaggi e per i malati. Buona giornata.